Bene, cari amici, siamo dunque arrivati al termine del capitolo quarto del nostro libro Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Ci tengo, cari amici, a sottolineare questa espressione contro, perché? Perché come la tradizione ci inquadra, la tradizione spirituale, la vita cristiana qui sulla terra è una lotta, i nemici visibili sono la nostra carne, cioè il nostro io egoistico, il mondo che ci circonda, ma dietro di loro c'è la presenza del maligno, quindi è una lotta contro Satana. E abbiamo visto, cari amici, quali sono le caratteristiche, la natura di questo essere che si è pervertito da se stesso, non accettando la dipendenza da Dio, l'adorazione di Dio e l'amore per Dio. La natura di questo essere è quello di odiare Dio, perché è geloso di Dio, vuole essere lui Dio al posto di Dio. E noi questo lo vediamo dalla sete di adorazione che il maligno manifesta. E abbiamo visto anche i passi dell'Apocalisse dove si vede tutta la ferocia di Satana. Pensate per esempio al drago del capitolo dodicesimo dell'Apocalisse, il drago infuriato che vuole divorare il bimbo che nasce dalla donna e poi, essendo stato il bimbo salvato, portato in cielo, perseguita la donna, che è appunto Maria e la Chiesa nel medesimo tempo. C'è quindi animato da un odio inestinguibile, eterno, nei confronti di Dio, pretende l'adorazione qui sulla terra al posto di Dio, noi lo vediamo questo dalla tentazione, sia di Adamo ed Eva, quando lui, il serpente, insinua, se ne mangerete diventerete come Dio. Oppure nella tentazione rivolta a Gesù, quando dice tutti questi regni ti darò se tu prostrato mi adorerai. Ecco, e proprio perché odia Dio, cari amici, si oppone in tutti i modi ai piani di salvezza e di misericordia di Dio. E noi abbiamo ieri descritto alcuni aspetti di questa opposizione del serpente antico, del maligno, che è una opposizione instancabile, cioè Satana non si stanca mai di opporsi a tutti i piani di misericordia di Dio. Noi lo vediamo ai grandi appuntamenti del piano di Dio, cioè nella creazione, nella elevazione dei progenitori, la creazione in grande dignità e l'elevazione, diciamo così, la dignità dei figli di Dio nel paradiso terrestre, ecco che il serpente l'ha pronto per distruggere ciò che Dio ha creato e ha donato. E quando è il momento della redenzione, cioè quando Gesù inizia la sua vita pubblica, ecco che il maligno lo affronta fin dall'inizio della sua vita pubblica. Satana è prontissimo a tutti gli appuntamenti dove si manifesta la misericordia di Dio ed è presente nell'opporsi, nel disgregare, nel sobillare, nell'ingannare, nel sedurre, nel seminare zizzania. Ed è anche per questo, cari amici, che tutte le opere di Dio nel corso della storia sono fortemente contrastate dagli uomini, perché sono sobillati da Satana. Noi vediamo come dopo che Cristo ha respinto il tentatore nel deserto, noi vediamo come Satana gli aizza contro le persone. Gli aizza contro le persone, per cui Cristo ha dovuto passare gran parte della sua vita come un fuggiasco, come un esule, come un perseguitato. E gli aizza contro le persone per distruggerlo, oppure anche per sedurlo, come quando volevano farlo re. E cerca in tutti i modi di sviare Cristo dalla sua missione. La stessa regina della pace, per dire gli avvenimenti, perché poi Dio si manifesta nel corso della storia in tanti modi anche attraverso i suoi santi. Noi vediamo che i grandi santi, appena Satana è sentore, che c'è un profumo di santità e che attraverso una persona Dio agisce, o attraverso un'opera Dio agisce, ecco che solleva polveroni, crea divisioni, provoca persecuzioni. Se noi dovessimo guardare la vita tormentata, per esempio, di un santo che tutti conosciamo perché è recente, ma potremmo portare l'esempio di tanti altri santi, Pensiamo per esempio alla vita di Padre Pio, noi ci rendiamo conto come in realtà questa vita fu fortemente contrastata da Satana. Cioè, la lotta di Padre Pio contro Satana fu quella che si svolgeva nella sua cameretta quando Satana faceva i suoi numeri da circo equestre. Non è pericoloso Satana quando fa i suoi numeri da circo equestre. Infatti, i grandi santi, quando il demonio faceva i suoi numeri nelle loro camerette, si giravano dall'altra parte del letto e continuavano a dormire. Invece, e quando entrano nel cuore degli uomini, li aizzano, e le loro lingue diventano lingue di serpenti, calunniatrici, ingannatrici, con la bocca benedicono, col cuore maledicono, dice la Bibbia. E quando diventano seduttrici, quando diventano le lingue di adulatrici, allora sì che il serpente è molto pericoloso. E ovunque Dio opera nel corso della storia, sia nel corso della storia, diciamo così, biblica, ma anche nel corso della storia della Chiesa, Satana è sempre presente a sollevare i polveroni e a contrastare fortemente, fortissimamente i piani di Dio. E vi ricordate quello che diceva appunto, vi dicevo che a questo riguardo io ho dedicato un capitolo intero del mio libro Perché credo a Medjugorje, proprio i messaggi che la regina della pace dà sul demonio, ben 50 messaggi, dove uno degli aspetti che la Madonna mette in evidenza è proprio questo, che Satana cerca di, in tutti i modi, di ostacolare i piani di Dio, di appropriarsi sui piani di Dio e di bloccarci sul cammino della santità. D'altra parte la parola diavolo significa proprio colui che si mette attraverso, colui che è di intralcio, che impedisce di passare. E la regina della pace dice che Satana opera moltissimo anche sul piano individuale, cioè cerca di bloccarci sul cammino di santità, cerca di bloccare le opere di Dio anche nei confronti delle persone, i piani di Dio, i progetti di Dio nei confronti delle persone. È un oppositore strenuo, infaticabile. La sua infaticabilità, il fatto che lui non prende mai le ferie, che non riposi mai, che sia inesauribile nel pensarle tutte, cari amici, tutto questo è animato dal suo odio nei confronti di Dio, ma anche dal suo desiderio di costruire un regno che si oppone a Dio, come vedremo. Adesso noi, cari amici, dobbiamo, per chi ha il libro Il Falsario, siamo a pagina 30. Abbiamo già visto come Satana era pronto in due grandi appuntamenti, quello del paradiso terrestre con l'uovo Adamo e quello del deserto, paradiso terrestre con l'antico Adamo, e quello nel deserto, all'inizio della vita pubblica di Gesù, con il nuovo Adamo, cioè Gesù Cristo. Però, dopo che Cristo è salito al cielo, Satana, come ci spiega l'Apocalisse al capitolo 12, rivolge tutta la sua ferocia nei confronti della Chiesa. Siamo a metà di pagina 30 e scrivo: dopo la salita di Cristo al cielo, è la Chiesa il nemico numero uno da combattere. Essa infatti è il prolungamento di Cristo, è la colonna della verità e della fonte della santità. Da essa gli uomini attingono i tesori della redenzione. Satana si rende conto che combattendo la Chiesa riesce a mantenere il suo dominio, un dominio parziale si intende, sul mondo. Tu lo vedi all'opera fin dalle prime ore della predicazione apostolica. E a questo riguardo, cari amici, sarebbe interessantissimo fare uno studio della presenza di Satana negli Atti degli Apostoli, dove si vede come cerca di bloccare la predicazione, cerca di sedurre, di insinuarsi, di creare disordini e di impedire in tutti i modi la diffusione della parola di Dio. Per esempio, fa molta impressione, scrivendo, se voi leggete la lettera di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, ne ha scritte due, Paolo parla diverse volte di Satana e ne parla anche in termini estremamente affascinanti, come quando lo descrive quando descrive l'anticristo, no? Che dice che appunto è il figlio della perdizione, no? Che si manifesta con la potenza di Satana. È Paolo che ci descrive l'anticristo che si manifesta con la potenza di Satana. Questo lo fa nella seconda lettera ai Tessalonicesi, ma nella prima lettera ai Tessalonicesi Paolo dice che lui per ben due volte aveva cercato di andare a visitare i Tessalonicesi, ma Satana glielo aveva impedito. Naturalmente Satana gliel'ha impedito non direttamente, non manifestamente, ma attraverso le persone, attraverso qualche avvenimento. E vedasi prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 18. Questo passo a me mi ha sempre molto impressionato, perché noi molte volte, se non riusciamo ad andare in un posto, fare una cosa, diciamo, beh, insomma, si vede che, vabbè, il caso. Invece, a mio parere, queste sono, non so come dire, le chiavi di interpretazione di tanti avvenimenti che riguardano la storia della salvezza, la storia della Chiesa, ma anche la nostra storia personale. Cioè, dietro tanti avvenimenti che sembrano, fra virgolette, così, naturali o sociali, in realtà c'è l'opera del maligno. Prendiamo per esempio un avvenimento come la guerra. Voi sapete che questa radio, nei confronti dell'ultima guerra, quella nel Kosovo, si è schierata decisamente, naturalmente in comunione col Papa, ma anche per convinzioni nostre, per la via della pace, per la via del negoziato. Per quale ragione, cari amici? Non per valutazioni politiche, non perché noi parteggiassimo per una parte o per l'altra, ma perché nella consapevolezza che dietro la guerra c'è sempre Satana. E a questo riguardo, se vi ricordate, io in quell'occasione ho citato parecchie volte, anche per tacitare certe persone che facevano fatica a mettersi su un piano soprannaturale e guardavano gli avvenimenti troppo su un piano umano, ho citato parecchie volte una frase della regina della pace che riguardava la guerra precedente, cioè quella sempre in Bosnia, no? Dove la regina della pace è rivolta proprio a tutti, ma in particolare ai croati, perché a Međugorje sono croati, diceva: Satana vuole la guerra, diceva la regina della pace, Satana vuole la guerra. Quindi vedete, cari amici, come dietro un avvenimento che molti potrebbero spiegare con argomentazioni di carattere politico, economico, sociale, eccetera, in realtà una lettura soprannaturale ci aiuta a capire quello che c'è dietro. Satana vuole la guerra. Così pure, cari amici, nei confronti di tante persecuzioni contro la Chiesa, non si possa, uno dicebbe, il fanatismo religioso, l'incomprensione, no, nelle persecuzioni contro la Chiesa va visto esattamente quello che ha visto San Giovanni nell'Apocalisse, o quello che hanno visto gli Atti degli Apostoli, perché leggiamo gli Atti degli Apostoli, leggiamo l'Apocalisse di San Giovanni. Noi vedremo la chiave di interpretazione delle persecuzioni fatte alla Chiesa. Cioè, le persecuzioni fatte alla Chiesa sono opera di Satana. È Satana che vuole mandare in carcere i credenti. È Satana che vuole uccidere i credenti. È Satana che subilla le persecuzioni. È Satana che crea divisioni all'interno della Chiesa. È Satana che pone degli intralci, degli ostacoli. Questa è la lettura che ci dà la Bibbia di tanti disordini, di tante difficoltà, persecuzioni che la Chiesa attraversa lungo il corso della storia. C'è dietro il grande nemico che opera per impedire, per sedurre, per sgretolare. A suo tempo, come ha cercato di eliminare Cristo, così cercherà di eliminare la Chiesa, ma allora sarà la fine del mondo. Lo dice questo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, la più grande seduzione satanica, la grande impostura, verrà alla fine dei tempi. Allora, Satana riserva alla Chiesa il medesimo trattamento che ha riservato a Gesù Cristo, cioè la seduzione, la persecuzione e il tentativo di annientamento. Quindi, senza vedere Satana dappertutto, dobbiamo saperlo vedere laddove c'è. E certamente è presente nell'opera di seduzione e di persecuzione della Chiesa. Le eresie, da che cosa sono causate? Le eresie, le divisioni, gli scismi, da che cosa? Dall'azione del diavolo, dall'azione del maligno. Allora, questo per me è molto importante capirlo, che questo è un fatto ampiamente attestato dalla scrittura. L'Apocalisse sarebbe incomprensibile. Chi è che suscita le grandi persecuzioni nei confronti della Chiesa? Il drago rosso, con le sue incarnazioni storiche, che sono appunto il potere politico, il potere massmediatico. Dico potere massmediatico perché i falsi profeti ormai sono lì nel potere massmediatico, no? Il potere economico, i poteri di questo mondo perseguitano la Chiesa, ma dietro di loro c'è il dragone rosso, ci dice l'Apocalisse. Questo va capito molto bene. Perché, cari amici? Perché ci sono dei cristiani che si illudono che col mondo si può andare d'accordo. Ma dove sta scritto nel Vangelo che col mondo si può andare d'accordo? Quando Gesù Cristo ci ha detto vi perseguiteranno. E perché vi perseguiteranno? Perché Satana aizza. Satana è infaticabile, non va mai in ferie, non smetterà un solo istante di perseguitare la Chiesa fino alla fine dei tempi, fino alla fine dei tempi. Non smetterà un solo istante di farlo, cari amici. Per cui quelli che cercano di imbonire, cercano di andare d'accordo col mondo, che si illudono di andare d'accordo col mondo, non sanno, non si rendono conto che c'è il nemico sempre all'opera, fino alla fine dei tempi. C'è il nemico sempre all'opera. Che cosa sperate? Quelli che oggi vi sono amici, parlo del mondo, domani vi saranno nemici. Satana è instancabile nel suscitare persecuzioni alla Chiesa, per cui non cerchiamo appoggi nel mondo, non cerchiamo protezioni nel mondo, non confidiamo nei buoni propositi del mondo, ma confidiamo nella potenza di Dio, che come ha salvato Cristo salverà anche la Chiesa. Dunque abbiamo scritto il demonio odia la Chiesa con la stessa forza con cui odia Dio. Come potresti spiegare diversamente le persecuzioni continue che hanno contrassegnato il cammino della Chiesa nei primi 2000 anni della sua storia? Persecuzioni continue. Non hai osservato come le persone che sono sotto il suo influsso provano fastidio per la Chiesa e ne parlano volentieri male, qualunque cosa faccia o dica? Quindi, guardate che per Satana è un giochetto, perché le persone che sono nel peccato mortale sono sotto il suo influsso. Lui le usa come e quando vuole contro te, contro la Chiesa, contro i cristiani singoli. Te li aizza contro come e quando vuole, perché sono sotto il suo influsso, sono suoi. Sono ben ingenui, e ribadisco questo concetto, quegli uomini di Chiesa che sperano di avere l'approvazione o l'ammirazione di un mondo che è ancora largamente sotto l'influsso del maligno. E poi c'è una parte di mondo che è sotto l'influsso del maligno perché non se ne rende conto, ma c'è anche una parte di mondo che è sotto l'influsso del maligno perché respinge, rifiuta coscientemente Cristo. È il mondo che si è chiuso totalmente a Cristo. Ha detto il suo no definitivo a Cristo e il suo sì a Satana. Per questo mondo Dio, Cristo non prega, perché è già all'inferno. Dobbiamo leggere tutte le parole di Cristo, capirle tutte, non soltanto quelle che ci fanno comodo, perché tutti insieme formano un mosaico di verità. Quindi è illusorio per la Chiesa pensare di andare d'accordo col mondo. Vi perseguiteranno, vi flagelleranno, vi chiameranno nei tribunali, vi uccideranno. L'ha detto Gesù Cristo, figuriamoci. se non si atomo, qual è la ragione? Qual è la ragione? Perché il mondo vi odia, dice Gesù. Il mondo vi odia perché come medesimo mondo ha odiato Dio, ha odiato Cristo, odia anche noi. Perché? Perché Dio c'è l'odio del falsario, l'odio del maligno. State attenti, cari amici, quando la Chiesa va d'accordo col mondo, mica è detto che le cose vadano bene. Può darsi che invece vadano malissimo. Perché? Perché vuol dire che il sale è diventato un po' scipito, che il lievito non fermenta più la pasta. Vuol dire che noi abbiamo rinunciato a pensare secondo il Vangelo e abbiamo assunto il modo di pensare secondo il mondo. Per cui il mondo dice, beh, anche loro la pensano come noi. Invece, cari amici, più la Chiesa è di Cristo, più Satana la odia. Noi lo vediamo nei santi. Siccome loro sono di Cristo, più sono odiati, bersagliati dal maligno. E quindi più la Chiesa è santa, più la Chiesa è fedele a Cristo, più la Chiesa parla chiaro, e più Satana la accusa, la diffama e la avversa. La fine dei tempi vedrà, il tentativo del maligno di eliminare la Chiesa, con la più grande opera di seduzione e di persecuzione che sia mai avvenuta. Confronta Catechismo della Chiesa Cattolica numero 675. Quindi, alla fine dei tempi, addirittura il maligno cercherà di liquidare il cristianesimo dal mondo. Ed è durante l'estremo assalto, io questo l'ho spiegato a lungo nel mio libro di Esire, è durante l'estremo assalto, volto a distruggere la presenza della Chiesa sulla terra, che l'esercito del male sarà colto all'improvviso dalla venuta del giudice divino, quando penseranno che le loro schiere hanno vinto, pensando ad aver vinto le elezioni universali con le quali si decreterà la fine del cristianesimo nel mondo, no? Quando l'esercito del male penserà di aver finalmente espulso Dio dal mondo, Cristo dal mondo, quando Satana si illuderà finalmente di essere diventato il padrone del mondo, ecco che all'improvviso verrà il giudice divino, il quale decreterà la sua definitiva sconfitta, rinchiudendolo per sempre nello stagno di fuoco e di zolfo. Vi parlo, cari amici, con in mano Apocalisse 20,10, Catechismo della Chiesa Cattolica numero 675. Questa è dottrina di fede, che alla fine Satana cerca di eliminare la Chiesa, ma sarà sconfitto per sempre e sarà rinchiuso per sempre nello stagno di fuoco di zolfo lui e tutti i suoi seguaci. Quindi vedete, cari amici, come è instancabile, fino alla fine tenta di essere lui il padrone della terra, lui il padrone del mondo. E vorrei, caro amico, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, cari amici, ma qui naturalmente dico nel libro, che tu comprendessi, mi rivolgo al lettore, no? Che è sempre una persona sola in quel momento lì, che tu comprendessi che l'infaticabile avversario di Dio non è presente soltanto ai grandi appuntamenti della storia della salvezza, ma anche, attenzione, nei piccoli eventi della vita quotidiana, di tutti coloro che sono al servizio di Dio e si impegnano nel cammino di santità. Tu nel tuo cammino di santità, nel tuo servizio alla Chiesa, nel tuo vivere il Vangelo, sarai contrastato fortemente da Satana, il quale opera anche attraverso gli altri che sono sotto il suo influsso. Laddove un'opera di Dio incomincia a germogliare, ecco che subito il maligno si avvicina per impedirne la crescita. Ovunque Maria, la madre della Chiesa, semina le grazie, ecco che egli passa furtivamente per rubarle. Nei cuori dove lo Spirito Santo sparge i semi della santità, ecco che Satana subito sopraggiunge per portarli via, Vedi Marco 4,15. Crescendo nella fede e nel discernimento, non ti sarà difficile vedere l'opera sottile e instancabile dell'avversario per impedire i tuoi progressi nel cammino di perfezione.